24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Si apre ufficialmente la 48esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Cari italiani, alle 6:31 minuti. Si apre ufficialmente la 48esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Alle 6:31 minuti di lunedì 31 marzo. Cari italiani, eccoci qui. Questo è 24 mattino, noi ci siamo e voi, come dico io, e qualcuno si arrabbia e quindi lo dico sempre di più, razza di debosciati, che state facendo? Siete già attivi? Allora, Miriam Lucchetti sì, è attiva, sta anche telefonando e come al solito quando telefona vuol dire che qualcuno non risponde. Sia mai che non si sia svegliato colui che accusava di non essersi svegliata Vladimir Luxuria settimana scorsa? Federico Novella, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. No, perché sarebbe stato clamoroso. La scorsa settimana insultavi Vladimir Luxuria, dicevi farabutta, disgraziata. Gli hai lasciato anche un messaggio vergognoso, volgare in segreteria telefonica. Esatto. Poi l'ha sentito, il giorno dopo ovviamente era qui in onda. Era furiosa, no, si scusava anche tantissimo di non essersi svegliata. Va bene, allora apriamo il Parlamento insieme al nostro Peter Bescapè che torna in regia. Alpino, dove eri finito? T'ha messo di notte, anzi. Il caffè volentieri tutti. Ce l'hanno detto, ti hanno messo al turno di notte. Forza, forza, gente, accorrete al Parlamento. L'Alpino al turno di notte, vabbè. Insomma, qualcuno deve sobbarcarsi questa sofferenza. Allora, saluto anche Silvia Brasca. Buongiorno Silvietta, come stai? Io Benone, saluto l'amico Novella. Stai un po' come l'Inter. Ciao carissima Silvia. Un po' come l'Inter stai, vabbè. Perché ridi? Perché ti sei montato la testa sabato sera. Abbiamo fatto due vittorie di seguito, non capisco più nulla. Sono fuori di me. Caro Federico, invece la tua Juve com'è andata ieri sera? Vogliamo fare la puntata su questo, ma se ti fa piacere, facciamola. Ma no, non parliamo di calcio, per carità. Allora, avete visto, cari Silvia, caro Federico, è partita la disfida del Senato. Mamma mia, quante se ne stanno dando di santa ragione. Grasso che ieri è partito dicendo non ha i numeri. Oggi Renzi fa un'intervista di due pagine sul Corriere, intervistato da Cazzullo, e quando succede così vuol dire pam pam, a colpi di interviste se ne danno di santa ragione. Renzi a un certo punto dice di Grasso: mi stupisco molto colpito dall'atteggiamento di Grasso. Avesse detto Schifani una cosa del genere, Opera, ci sarebbero i girotondi della sinistra. Caro Federico, hai visto che succede? Sì, beh, è tutto molto divertente. È evidente che su questa cosa del Senato lui ci mette la faccia, su questa cosa del Senato, però è anche vero che, voglio dire, io ricordo che a sinistra ci furono molti, appunto, girotondi, se vogliamo dire questa cosa, quando Berlusconi e altre maggioranze vollero fare famose riforme a colpi di maggioranza. Adesso vedo un po' di imbarazzo a sinistra, visto che Renzi vuole più o meno fare la stessa cosa, infatti. La sua energia, no? Con la sua voglia di fare subito, tutto è subito. Tutto è subito, ma infatti lo ribadisce: se non finisco io, se non faccio questa cosa, non è che cade il governo, proprio finisco io. In realtà è molto chiaro il disegno. Vuole forzare la mano, perché se succede che qualcuno gli va contro, cade il governo, si candida, no Silvia, e così poi viene pure legittimato dal popolo e dal voto se vince le elezioni, o no Silvia, è così. Sì, però con quale legge elettorale, poi vediamo. No, no, anche secondo me oggi lo sentiremo, ha detto che scende lui in sala stampa. È vero, la racconterà lui, la racconterà lui. Quindi oggi è la puntuta intervista di Cazzullo, gli chiede se... Perché ridi? No, ma attenzione, accuse a Cazzullo da Silvia Brasca. No. Ma inizio io. No, è un'intervista, Corriere, dove le paginone, sappiamo, insomma, mi sembra che sia un giornalista, mi dispiace dirlo, amico, insomma. L'aiutino. Vabbè, doveva rispondere all'intervista di Repubblica di Grasso, insomma, e quindi sul Corriere Renzi. Insomma, lo vedremo oggi in sala stampa, ce la racconterà. Io, insomma, questa. No, a me ha fatto ridere, scusate, perché quando sembra quelli che dicono qual è il tuo peggior difetto sono troppo buono. A un certo momento la seconda domanda è: la rimproverano per l'impazienza e la precipitazione. È vero. Senti, Silvia Brasca sta stroncando l'intervista a Renzi. No. Prima mattina si leggono, insomma, è l'ultima domanda, quella sulla casa, altri giornali ci puntano di più. Vabbè, però non è quello il problema, oggi è una giornata importante, spero. No, è chiaro, davvero. Oggi nuova infornata di slide, questo ci stai dicendo in conferenza stampa. Non dovrebbe essere uno show adesso. Non dovrebbe essere uno show, vabbè. Comunque vogliamo sentire Grasso, perché la sfida c'è un piccolo particolare, ma Grasso non è stato eletto nel PD come Renzi? Piccolo particolare, sentite Grasso ieri dall'Annunziata. Se dobbiamo fare una riforma costituzionale che impegnerà, essendo una riforma costituzionale, il nostro paese su un sistema assolutamente diverso, bisogna ponderarla, certo. E bisogna cercare di ottenere la massima condivisione anche delle opposizioni, perché non si può cambiare la Costituzione a colpi di fiducia come è avvenuto per le Vabbè, insomma, io adesso non è che voglio fare una presa di posizione, non me ne frega niente, cioè io sono, diciamo, apolitico, ecco, mettiamola così. Per me se Renzi dice una cosa buona, ha detto una cosa buona, se il giorno dopo si sveglia dice una cazzata, non mi interessa. Ma c'è qualcosa di più vecchio dell'immagine di Pietro Grasso? No, dell'immagine di una politica che tenta di dire ma no, però i colpi di maggioranza, Federico Novella, i colpi, ma d'altra parte, ma cosa ci aspettavamo? Che il Presidente del Senato fosse favorevole allo stabilimento del Senato? Anch'io trovo che, trovandomi d'accordo Alessandro, ma dove sei scomparso, Federico? Dove sei scomparso? Eccomi qua. Non ti sentiamo più. Sei andato in cantina un attimo. No, torna tra noi. Sempre qui. No, nel senso, non potevamo aspettarci che il Presidente del Senato fosse favorevole allo scioglimento del Senato. Io credo che questo sia solo l'inizio, perché voglio dire, figuriamoci cosa faranno gli ultimi dei peone. Ma certo, ma prenderanno l'ultimo dei senatori, quello che proprio gli dicono: guarda, tocca a te. E gli faranno presentare degli emendamenti assurdi. Sarà un Vietnam. Delle robe clamorose, no? Gli farà, Silvia Brasca, prenderanno, non lo so, il senatore Pinco Pallino del Movimento per le Grandi Rivolte del Sud, non lo so, ne vedremo delle belle. Sul fatto però che il Presidente del Senato proprio sia quello, non sono così d'accordo, nel senso, appunto, perché lui è stato eletto comunque per il PD, insomma, potrebbe avere una posizione comunque più morbida, andare lì ancora bisogna ponderare, no, cioè, Silvia, è un momento, ormai neanche il Presidente della Repubblica ha posizioni morbide, figuriamoci il Presidente del Senato. No, ma tra l'altro c'è non so, anche il Ministro Boschi fa un'intervista sulla stampa, a parte che dice pensavano tutti scherzassimo, l'abbiamo detto nella famosa conferenza stampa un po' di tempo fa, e adesso stiamo facendo quello che abbiamo detto di fare. e poi ha detto: ma invito Grasso a farsi un giro tra la gente, che per carità non è che la gente sia per forza, però provi ad andare a chiedere che cosa ne pensa del fatto che il Senato debba rimanere così com'è, che poi per la verità non è che Silvia, non è che Renzi vuol prendere il Senato e buttarlo nel water e tirare l'acqua, cioè, vuole fare un altro tipo di Senato, cioè non eletto con quelli che vengono scelti che non prendono lo stipendio, che non vota più la fiducia. Non mancano in altri paesi, quindi... Esatto, esempio Roma, che non vota più la fiducia e non vota le leggi, il bilancio, non vota, cioè vuole snellire tutta questa procedura un po' barocca, ecco tutto qua. Speriamo. Poi sul fatto dei girotondi, vabbè, sono cose diverse. Ma siamo lì, siamo allo scontro verbale. Però, se posso, è anche vero che insomma agli italiani piace l'uomo forte, l'uomo che non è che si perde troppo in discussioni, va dritto al punto e decide da solo. Da sempre l'uomo forte è stato più o meno a destra, adesso per la prima volta ce l'abbiamo a sinistra, e questo può generare un certo disorientamento. Di la verità, anche tu Silvia, l'uomo che non deve chiedere mai. È un po' così, l'uomo denim, era denim, no, Renzi, sì, no. Anche a te Silvia piace un po' l'uomo così forte, ammettilo, l'uomo che non deve chiedere mai. Io telefonerei a Luxuria, l'Italia è rappresentata come una donna proprio con la corona in mano. Potremmo fare uno scherzo, chiamare stavolta, svegliare Luxuria e dire: allora Vladimir, oggi non ci sei, dice, e stavolta magari ci risponde. No vabbè, lasciamo stare, lasciamola dormire. Allora sentiamo tra l'altro Lucia Annunziata, sempre come chiama a un certo punto Pietro Grasso, il presidente del Senato. Dopo il nostro telegiornale in onda in mezz'ora di Lucia Annunziata, siamo collegati con te, vedo alle tue spalle un ospite del quale abbiamo parlato anche noi in apertura di giornale. Esatto, forse non avrei molto da aggiungere, ma insomma, giusto per chi ancora non ha seguito, Aldo Grasso, Pietro Eccolo Grasso. Eccolo lì, era ovvio, era dietro l'angolo la gaffa, Federico, Aldo Grasso. Grasso che corre, da dire. Va bene, allora invece dall'altra parte, mentre c'è Pietro Grasso, tutta la questione, il Senato, devo fare questa domanda. Tu Silvia Brasca hai un animale? Hai un tieni a parte tuo marito? Nel senso, classica battuta. Che milanista per l'appunto. Vabbè, sì. No, ne ho avuti, adesso no, in casa, nella mia casa d'origine ce n'erano. Non hai animali. Federico Novella? No, neanche io. Adesso non ce li ho. No. Insomma, qua Berlusconi deve un attimo... mandarvi in una, non so, in una casa correzionale. Cosa dobbiamo fare? Vabbè, insomma, è arrivato... È arrivata la svolta animalista di Berlusconi, io ve l'avevo detto mesi fa. Ve l'avevo detto il mesi giro fa. Tondo lo faranno Cocani. Ve l'avevo detto mesi fa che Berlusconi punta, e ormai guardate, ci sarà una campagna elettorale a pagina 5 del giornale, rispunta Michela Vittoria Brambilla che dice rispunta. Rispunta, sì, è vero, un po'... È da mesi che c'è un'intervista al giornale. Non è mai tramontata. Giornali media, che rispunta. Vabbè, ma pagina 5 del giornale, c'è l'intervista politica del giorno, dice Berlusconi è animalista da sempre. I sondaggi già danno 7% di voti in più, la svolta animalista, i 10 milioni di animali, veterinari gratis per tutti... Che ne pensi Federico di questo? Stai attento, Penso che possiamo già annunciare in anteprima il nome del nuovo candidato, che frontman per le politiche, lo stavamo cercando da tanto tempo, che risponde a nome dell'onorevole Dudu, evidentemente. Dudu, chiaro, è un gran classico. Forse bisognerà cambiare la Costituzione, ma con i metodi di Renzi si fa in fretta. Insomma. No, ma infatti, tu cara Silvia, che dici? Stai attenta, che ascoltano Ma no, dico che c'è una strategia molto chiara. Ed è un po' l'ultima spiaggia. Federico lo sa bene, chi fa televisione lo sa, che quando c'è un programma un po' in difficoltà arriva il cane. Nei programmi televisivi il cane è uno strumento usato per un po' per è un uno due punti in più di audite. Ma è vera questa storia? Questo è vero, è un momento fondamentale della televisione perché è un aiutino all'audite. Ma vale anche per i gatti? Meno, perché poi è un po' più di nicchia. Poi sì, c'è il rischio invece con quelle cane, cose. Però. E invece i cavalli, no, che poi dopo succede. I cavalli sono radicali. Bisogna il termometro e la brambilla. Aspetta un attimo, Silvia, perché allora i gatti sono di nicchia, i cavalli sono radical chic. Quindi magari Bertinotti avrebbe portato un cavallo in onda, poi non so perché Federico Novella ce l'ha tutti con gli autori, poi allora, i cavalli no, gli asini, un asino potrebbe andare, un asino no, l'asino no. È anche questo di nicchia, il vero animale nazionale popolare è il cane, è il cane, è il cane. A pelo lungo, mi raccomando, tu lo sai Federico che dovrai condurre con un cane nel giro di una settimana a fianco, no? scegli già nome e razza. È già successo, ha ragione Silvia quando dice che in TV spesso ci si aiuta con questi mezzi, dubito un po' della trasposizione del cane dalla TV ai voti, insomma, non so quanti voti poi possano portare. Sì, perché forse il cane non vota. Più deboli, insomma. Forse il cane non vota. Infatti, essendo che il cane non vota, mi chiedevo dov'è il vantaggio. Ecco. Non lo so. Vabbè, però se dai veterinari gratis nei club Forza Italia, già hanno cominciato, ma queste cose gli italiani insomma c'hanno così l'orecchio attento. E comunque andiamo a sentire il traffico e poi rientriamo. 24 mattino. Alessandro Milan, nessuno come lui è abile nel rivoltare la materia ultima della digestione di cui è fatta la politica italiana. Speriamo che il puzzo progressivamente cali. Hi Milan, I'm Barack Obama, Bella Voce Italia, Colosseo, pizza, pasta, mandolino, yeah, ma adesso morite di comprare i nostri F-35. Ma ce lo vedi Obama che va al Colosseo con i mezzi pubblici a Roma? A Obama che ti serve un biglietto, todo io, appena stampato, fresco, ecco qua, te l'ho pure in promozione alla cartina di Roma, divertiti, va. Va al Colosseo, Sorcino. Con tutto il rispetto per gli altri ospiti che vengono da te al Parlamento, ma Forchielli che fine ha fatto? L'ingiustizia ormai dilaga. Da maggio per chi lavora più 80 euro in busta paga. I pensionati però nessuno se li caga. Dopo anni di studio voglio rendere pubblico una notizia importantissima. La divisa rende l'uomo arrogante. Sì, signori, la divisa rende l'uomo arrogante. Da quella dell'infermiere a quella del poliziotto. Perché quando gli metti una divisa o un cappello in testa a qualcuno, diventano tutti dei capitani. Questa è la nostra Italietta. Viva Milan e viva me! Oh, viva me soprattutto. Allora, Federico Novella e Silvia Brasca, avete sentito, anche Barack Obama ci ha lasciato un messaggio, No. Sì, mi è sembrato di intuirlo. Ah, non era lui? No, però poteva essere anche credibile come messaggio. Insomma. Ma perché non era lui? Ma io ci credo, non era lui. Vabbè, pazienza, non era lui. Vabbè, io in queste cose sono ingenuo, non è che. Allora, la voce è inconfondibile. Infatti, l'accento era inconfondibile. Mamma mia. La pronuncia. Vabbè, Federico, tu che fai oggi? Allora, stamattina parliamo parliamo per una volta dell'Italia che funziona, quindi sarà una puntata un po' ridotta, insomma, un'edizione ridotta. Esatto, no, non va in onda oggi mattino 5, state tranquilli. No, Italia che funziona, con un po' di imprenditori che ce la fanno nonostante tutto, e poi parliamo di Equitalia, le storture di Equitalia. Ecco, a proposito di Italia che funziona, esatto. Va bene, politici che spendono soldi di Silvia Brasca e Federico Novella alla Regione Lombardia, elenco di consiglieri oggi sul Corriere della Sera. Vabbè, c'è la famosa 2 euro di barattoli di Nutella. Tu te lo ricordi, Silvia? Questo no? Sì, sì, sì, sì, lei, me li ricordo, me li ricordo. 120 bottiglie Refosco a spese tue. Poi una coppetta gelato 2,50 euro. Il consigliere Gian Giacomo Longoni oggi sul Corriere della Sera. C'è tutto questo elenco di cose che ti fanno pensare che cosa? No, puoi dirlo. È tutto un magna magna. È tutto un magna magna. Davvero. È molto carino quel pezzo per con l'elenco. Il senso del, per il cibo dei nostri ex consiglieri regionali. Sì. 2.140.000 euro spesi in 3 anni in. Oh, proprio in magna magna. Cioè, si sono mangiati. È ironico, ma in realtà è così. In 3 anni si sono mangiati 2.140.000 euro. Ma non è, caro Federico, che dobbiamo cancellare le regioni per questo, cioè, o rivedere qualcosa? Ma non lo so, però sicuramente questa nostra idea di federalismo va un po' rivista, no? Cioè, all'estero togli potere allo Stato perché tu riesci a esercitarlo meglio, qui sembra che invece ti spartisci il potere, ma in quel senso lì, cioè per poter acquisire un po' più di ricchezza sotto banco. Poi Lombardia, credo che qualcosa sia cambiato, probabilmente Silvia ne sa più di me, qualche regola in più è stata messa. Sì. Però di fatto da noi c'è stata una moltiplicazione di poltrone. No, ma infatti queste soprattutto sono le inchieste del passato, insomma, i politici preferiscono il caviale, hai capito, cara Silvia? Il caviale. Poi in queste cene mai un'insalatina misera con due robe, no, sempre caviale, champagne, cosa che uno a pranzo di solito mangi, anche tu, no? Vai invece della schiscetta, no? Alla 7, ti porti, ti vai a mangiare, ti vai a mangiare quinoa e questo fidale. Esatto. Queste cose, caviale, aragoste, tutte tipiche cose che tutti gli italiani a pranzo mettono sulla propria tavola, insomma. Beh, però sai, se devo sgarrare, sgarro per il caviale, non è che sgarro il panino col prosciutto, no? effettivamente questa cosa sì. È vera. Vabbè, mettiamoci un po' un'aura di serietà. Ti inquieta, caro Federico, tutto quello che succede in Europa con la vittoria anche adesso di Le Pen, gli europeismi, gli anti-europeismi, quello che sta succedendo? Ti inquieta, ti preoccupa oppure non te ne frega niente? Ma secondo me inquieta più Renzi, che ha capito che il vero avversario sarà Grillo, che è un po' il nostro Le Pen, voglio dire, anche se è molto diverso e fa anche un po' meno paura, secondo me, di quelli come Le Pen, però sì, sinceramente se la sono anche un po' cercata questo vento anti-europeo, Sì, mi inquieta nelle sue manifestazioni più estreme. In realtà poi, voglio dire, mi dà anche fastidio che non si possa parlare dell'Europa spesso senza venire additati come estremisti. Ah, no? Beh, certo, populisti, estremisti, no, questo è vero. Questo è uno dei mali dell'Europa, no? No, ma certamente il fatto, come scrive oggi Angelo Panebianco sul Corriere, che ci sia questo vento anti-europeo è perché l'Europa evidentemente non ha fatto molto per farsi amare, o no, cara Silvia? Non sono d'accordo, secondo me l'Europa è ancora, questa Europa nata dalla Seconda Guerra Mondiale, qua divento retorica, però è una delle poche cose alle quali dobbiamo guardare, per voi che avete bambini piccoli, per il futuro che deve essere, insomma, un'Europa davvero di frontiere aperte ci deve essere, e la vittoria delle destre, insomma, questo avanzamento delle destre è dato più da una crisi economica che da un senso anti-europeista, perché, cioè, non è l'Europa che ha fatto la crisi, ma perché la gente, insomma, che è in difficoltà, dobbiamo credere, ma d'accordo, no, ma io ti seguo, però perché la gente che è in difficoltà economica eccetera risponde e vede il nemico nell'Europa e non in qualcos'altro? Perché è grande, perché lì, perché glielo fanno anche credere, glielo fanno anche credere. Insomma, scrivono libri adesso contro l'Europa. Scrivono libri, certo. Mario Giordano ne ha scritto uno. Fa credere alla cosa più facile, l'euro, l'Europa. Cioè, è un anche urlo difficile. Che si leva, però senza neanche tanta alternativa poi. anche perché poi difficile. L'Europa qua viene appaiata a Prodi, cioè a tutto quel mondo lì che sappiamo quanto viene odiato. Attenzione, qua, Prodi che oggi fa un'intervista a Repubblica e dice sono un uomo felice. È così, vi devo lasciare così con questa di Prote. Con un messaggio di ottimismo. Vi devo lasciare Federico Novella, ciao. Grazie, ciao. Silvia Brasca, il TG della 7, essere stati con noi, è tempo di giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Forza italiani, alle 7:19 minuti, che siate debosciati o no, eccoci qua, pronti a leggere i giornali quando inizia ed è ufficialmente iniziata la 48esima settimana decisiva per la riforma elettorale e per l'abolizione delle province. Sarà la settimana decisiva? Mi sa di no. Allora, oggi parleremo del post-Obama. Sentite ieri ancora il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio. Non ha chiarito bene, non si capisce bene questo balletto sugli F-35, le spese militari, insomma, quello che è l'eredità anche del viaggio che ha fatto il presidente americano in Italia. Avremo ospite Massimo Fini del Fatto Quotidiano, avremo ospite il sottosegretario alla difesa generale Domenico Rossi per parlare di quelle che sono appunto le spese militari, alcune delle spese sulle quali si può ridurre e si deve risparmiare, così ancora ieri ha detto Delrio. Parleremo di questo mentre la politica imperversa con la disfida sul Senato, la riforma costituzionale che verrà presentata oggi da Renzi stesso ai giornalisti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri e sulla quale c'è uno scontro molto duro tra lui e il Presidente del Senato Grasso. E a proposito di questo andiamo a sfogliare i giornali che trovate in edicola. In questo lunedì 31 marzo intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre sulla tassa sulla casa, prime case nel mirino Tasi, niente sconti a Cagliari e Mantova, prendono forma le decisioni dei sindaci e purtroppo non sono belle sorprese, tanto che ci si chiede ma non è che va a finire che pagheremo di più rispetto alla vecchia IMU? E il sospetto è proprio quello. Allora, il Corriere della Sera, un'intervista al Premier Renzi che risponde all'intervista ieri di Pietro Grasso a Repubblica. No, il Senato non sarà più elettivo. Questo è il titolo di prima pagina del Corriere e la frase chiave dell'intervista a Matteo Renzi. Repubblica, Renzi a Grasso, sul Senato non mollerò. La Stampa, al Senato di Renzi con 148 membri ma nessun eletto. Il Giornale, la rivolta del Senato, Renzi in difficoltà. L'Unità, riforme, duello sul Senato, il secolo XIX, Senato, assalto alla riforma. Mentre il Messaggero ha una notizia in prima pagina, taglia IRPEF, ecco il decreto. Entro il 10 aprile il provvedimento che garantirà 80 euro in più nelle buste paga di maggio. Allora, intanto voglio iniziare per mettervi di buon umore, come succede spesso al lunedì, ma queste notizie sembra che appaiano lunedì sui giornali per mettervi di buon umore a loro volta. I politici e il magna magna, proprio in tutti i sensi. Ovviamente se siete in macchina vale sempre l'appellativo e il mantra che vi rivolgo. Tenete le mani strette, ben strette sul volante insieme alle tazzine del caffè da appoggiare, come al solito. Non scottatevi e leggete l'articolo sul Corriere della Sera di Giuseppe Guastella, pagina 18. I politici preferiscono il caviale. 2 milioni spesi a tavola dai consiglieri della Lombardia. Ovviamente, come al solito, si va a spulciare tra le inchieste della procura che indaga su consiglieri della passata legislatura, per la verità, a cercare di capire se hanno speso in maniera corretta i soldi nostri, e si scopre che in 3 anni si sono mangiati qualcosa come 2.140.000 euro, ma nel vero senso della parola. Dei quasi 3 milioni ottenuti come rimborsi tra il 2008 e il 2011, 64 consiglieri regionali della Lombardia ne hanno speso il 70%, con pochi intimi in ristoranti stellati, annaffiando i pasti con ottimi vini, in banchetti con centinaia di persone, in fugaci puntate solitarie al bar, ma anche tra gli scaffali del supermercato. Insomma, non si sono fatti mancare niente, poi dicono che la politica è quella del magna magna. Effettivamente, a leggere questo articolo sembra proprio così. Rischiano il rinvio a giudizio 31 consiglieri del PDL, 23 della Lega, 5 del PD, 2 dell'UDC e 1 ciascuno di SEL, IDV e Partito dei Pensionati. L'elenco dei rimborsi: Guido Galperti del PD ha messo in conto anche l'aspirina, 12,10 euro, oppure 35 euro all'angolo della serratura, Alessandro Marelli della Lega. E ancora c'è chi ha scelto costose iPad, iPhone, telefoni a cristalli liquidi, stampanti. Vabbè, notoria era diventata la spesa da 2,70 euro per il vasetto di Nutella di Carlo Spreafico del PD, oppure la ricevuta di 2.190 euro dell'onorevole Gianmarco Quadrini, capogruppo UDC, per caviale e pesce vario comprato all'Agroittica. Giuseppe Angelo Gianmario, PDL, 120 bottiglie di vino refosco, 1.094 euro, mentre il collega di partito Gianluca Rinaldin, 265 euro per pasteggiare con due commensali sorseggiando Brunello di Montalcino. Ci sono poi la misera coppetta da 2,50 euro di Gian Giacomo Longoni della Lega. E vabbè, e si continua così. L'assessore alla sanità Luciano Bresciani ha messo 3 ricevute dello stesso ristorante Grand Resort Bad Ragaz, che da una consultazione su internet risulta in Svizzera. E via, se magna. Questa è la politica nella regione Lombardia. Andiamo uno sguardo più europeo. Sapete che ci sono state le elezioni in Francia e i giornali analizzano la disfatta socialista. Questo è il titolo, per esempio, del Corriere della Sera, pagina 10. Sono invece le vittorie, sempre 10 città che sono andate al Front National di Marine Le Pen. E tra l'altro vi segnalo due articoli su questo. Il giornale intervista Jean-Marie Le Pen, il padre della leader del Front National, con Gaia Cesare, a pagina 14. Marine è pronta per l'Eliseo, dice il padre, sarà la prossima presidente. Ora Jean-Marie Le Pen dice: non siamo mai stati il diavolo, siamo stati fabbricati diavoli dai nostri nemici politici, piuttosto siamo patrioti nazionalisti. Il pericolo mortale a proposito di Europa è legato alla demografia mondiale. Mentre il resto del mondo continua a crescere, in Europa il tasso di natalità non smette di abbassarsi. E alla domanda del giornale: voi siete xenofobo? Risponde Jean-Marie Le Pen: quando sono stato eletto a 27 anni il secondo in lista era nero. Sono stato il primo francese a candidare un'araba deputata a Parigi nel 57, il primo a fare eleggere un musulmano consigliere regionale nell'86. Le basta? E poi risponde: che vuol dire essere Le Pen? Sono bretone e dalle mie parti Pen vuol dire capo. Credo nella stima e nella speranza che suscita questo nome. Ci votano anche gli operai, accadeva già quando io ero presidente. Marina ha aggiunto artigiani e commercianti. La crisi guadagna classi sociali, ecco perché presto tutto il paese la penserà come noi. Arriva inevitabile la domanda su Beppe Grillo. Non ci sono punti in comuni, sono solo apparenze, non ci paragonate a fenomeni spettacolari che si producono qui o là. Grillo è un leader carismatico, ma sparirà o arretrerà. Noi siamo un movimento che vive da più di 40 anni, così Jean-Marie Le Pen. Interessante tra l'altro l'editoriale di Angelo Panebianco in prima pagina del Corriere della Sera su questa vittoria in Francia, i demolitori in ordine sparso, questo è il titolo di Panebianco, sul fronte anti-europeo che è sempre più crescente, scrive Panebianco, il fronte europeo anti-Unione che si va formando, galvanizzato anche dal successo di Marine Le Pen nelle elezioni amministrative francesi, è assai eterogeneo, in esso si riflettono le diverse specificità nazionali. Per esempio, se non fosse perché in campagna elettorale tutto fa brodo, nessuno guarda troppo per il sottile, l'incompatibilità di fondo tra gli scopi dei lepenisti e quelli dei leghisti italiani dovrebbe saltare subito agli occhi. I lepenisti puntano al recupero pieno della sovranità nazionale francese. I leghisti, così come tutti gli altri difensori in Catalogna, altrove, dell'ideologia delle piccole patrie, sono nemici della sovranità nazionale. In teoria sono dunque anche nemici di Marine Le Pen, della quale però si dicono oggi alleati. Di più, quale futuro potrebbero mai avere le agognate piccole patrie, si chiamino Catalogna, Padania o altro, se non entro la cornice di un'Unione Europea ove le sovranità nazionali fossero progressivamente dissolte? Come potrebbero le piccole patrie affermarsi se non godendo della protezione dell'Unione? Cosa potrebbero mai combinare la Catalogna, tutta sola, in giro per il mondo? E poi scrive più avanti Panebianco, questi gruppi sono solo un pericolo per l'Europa, come sostengono i difensori dell'ortodossia europeista, oppure rappresentano anche un'opportunità? Dipenderà dall'entità del loro successo, un successo travolgente che per esempio vada oltre un terzo di seggi oggi previsto nel Parlamento europeo potrebbe aggravare la crisi dell'Unione, portarla oltre il punto di non ritorno. Invece un successo forte ma non travolgente potrebbe rivelarsi una buona cosa anche per l'Unione. Così Panebianco sul Corriere. Staremo a vedere. Intanto dopo la pubblicità stiamo a vedere che cosa. Beh, ieri c'è stata un'intervista doppia, prima Repubblica e poi da Lucia Annunziata in TV, di Pietro Grasso, presidente del Senato, che dice: attenzione caro Renzi, sulla riforma del Senato non hai i numeri, attenzione, non si procede così con colpi di maggioranza, attenzione, non si procede in questo modo. Oggi Renzi, molto piccato, risponde in un'intervista al Corriere dicendo: se le parole dette da Grasso le avesse dette un presidente del Senato di centrodestra come Schifani o come Pera, ora avremmo i girotondi della sinistra in piazza. Insomma, la lotta per la revisione, la riforma del Senato, questo è il tema politico del giorno, da cui ripartiamo dopo la pubblicità. Alessandro Milan, il debosciato dell'informazione. È il contrappasso che mi merito, questo era abbastanza chiaro, eccolo qui il debosciato vostro, preferito per voi razza di debosciati. Che non siete altro. Allora, come detto, c'è una guerra a colpi di interviste, a colpi di parole mica male, tra il presidente del Senato Pietro Grasso e il premier Matteo Renzi. Ieri Grasso, in un'intervista a Repubblica poi ribadita nei concetti anche nell'apparizione televisiva della Lucia Annunziata, ha detto: beh, la riforma del Senato così com'è non va, attento Matteo Renzi, non ci sono i numeri. Beh, come appare? A me, scritto su Twitter, appariva un po' un qualcosa di una difesa strenua dell'indifendibile, almeno nel parere della gente, no? Della popolazione, la riforma del Senato, che adesso, quando arriva al momento clou, cioè oggi la presentazione in Consiglio dei Ministri e poi Renzi la presenterà ai giornalisti, è chiaro, vede i senatori, alcuni senatori, dire: attenzione, non si fa così. Oggi Matteo Renzi risponde in un'intervista molto lunga, pagina 2 e parte di pagina 3 del Corriere della Sera, intervistato da Aldo Cazzullo. Renzi: ora vedremo chi correrà più forte, mi gioco il governo e la mia storia politica. Dice il premier: sono 30 anni che si discute su come superare il bicameralismo perfetto, ne abbiamo discusso 20 giorni fa in conferenza stampa su cui avete tanto ironizzato, quella della televendita, abbiamo presentato la bozza di riforma costituzionale, il dibattito può essere uno stimolo ma non può sradicare i paletti che ci siamo dati. E allora, quali sono i punti irrinunciabili del disegno di legge? Eccoli qui, sono 4. il Senato non vota la fiducia, non vota le leggi di bilancio, non è eletto e non ha indennità. I rappresentanti delle regioni e dei comuni sono già pagati per le loro altre funzioni. L'elezione diretta del Senato è stata scartata dal PD con le primarie, dalla maggioranza e da Berlusconi nell'accordo del Nazareno. Non so se Forza Italia ora abbia cambiato idea, se è così ce lo diranno. E dice Renzi, oggi scendo io in sala stampa coi ministri a presentare questa riforma, non sarà un altro show, lascio fare a loro, ma scendo anch'io e ci metto la faccia, perché alla domanda di Cazzullo, sta dicendo che se non passa la vostra riforma del Senato cade il governo? Non solo il governo, risponde Renzi, io mi gioco tutta la mia storia politica, non puoi pensare di dire agli italiani guardate facciamo tutte le riforme di questo mondo ma quella della politica la facciamo solo a metà. Come diceva Flaiano, la mia ragazza è incinta ma solo un pochino. Nella palude i funzionari, i dirigenti pubblici, i burocrati ci sguazzano, ma nella palude le famiglie italiane affogano. Basta con i rinvii, basta con il benaltrismo. Alla platea di benaltristi, quelli per cui il problema è sempre un altro, non ho alcun problema a dire che vado avanti, non a testa bassa, all'opposto, a testa alta. Così Renzi, che poi insomma spazia tutto campo, dice se non si deve costituzionalizzare la Camera delle Autonomie, il Senato non deve per questo diventare il CNEL 2 la vendetta. E quindi qui apre una parentesi sul CNEL, che definisce uno dei grandi fallimenti della storia repubblicana. Non a caso tentano di difendere il CNEL parti sociali e associazioni di categoria che prima ci chiedono di cambiare tutto, poi ci mandano documenti affinché tutto resti com'è. E poi arriva a Pietro Grasso. Pietro Grasso che le ha detto con chiarezza che non ci sono i numeri per la riforma che vuole lei. E qui risponde Renzi, sono molto colpito da questo atteggiamento del presidente Grasso. Io su questa riforma ho messo tutta la mia credibilità. Se non va in porto non posso che trarne le conseguenze. Mi colpisce che la seconda carica dello Stato, cui la Costituzione assegna un ruolo di terzietà, intervenga su un dibattito non con una riflessione politica e culturale, ma con una sorta di avvertimento. Occhio che non ci sono i numeri. Mai visto una cosa del genere, dice Renzi. Se Pera o Schifani avessero fatto così, oggi avremmo i girotondi della sinistra contro il ruolo non più imparziale del presidente del Senato. Io dico a Grasso, non si preoccupi se non ci sono i voti, lo vedremo in Parlamento. Siamo disposti a migliorare la riforma, non a toccare i paletti concordati. Oggi vedremo se qualcuno si tirerà indietro, e lo dico per il presidente Grasso che stimo, lanciare avvertimenti prima che la riforma vada in discussione è un autogol. Non lo dice il segretario del partito che l'ha voluto in lista, né il presidente del consiglio, lo dice un ormai ex studente di diritto parlamentare. Questa è la dura intervista di Matteo Renzi con la riforma spiegata a pagina 5 del Corriere, anche i confronti come avviene all'estero tra Stati Uniti, Londra, Berlino, Parigi, Madrid e Tokyo, come è fatto il Senato lì. Tra l'altro, oltre a Renzi c'è un'intervista anche su La Stampa e l'Unità del ministro Maria Elena Boschi, che è il ministro delle riforme per e di rapporti col Parlamento, che parla, ecco il Senato delle Autonomie, 148 persone senza indennità, intervistata da Carlo Bertini. Così il ministro Boschi dice a pagina 3, vogliamo il superamento del bicameralismo perfetto, niente più voto di fiducia del Senato che non voterà neanche il bilancio dello Stato. Insomma, dice le cose che ha detto anche il premier Renzi al Corriere. E tra l'altro, dice il ministro Boschi, forse si sono svegliati tutti oggi perché pensavano che scherzassimo. Anche all'Unità il concetto nell'intervista del ministro Boschi a Vladimiro Frulletti, i concetti sono gli stessi. A pagina 3, i cittadini ci chiedono di uscire da questa palude. L'immagine della palude sta cominciando a arrivarmi al collo e non farmi respirare, a sentire continuamente parlare di palude comincia a arrivare al livello delle fibrillazioni come mia intolleranza. Comunque c'è la palude. Ministro, domani dovreste approvare la proposta di riforma del Senato, chiede l'Unità alla Boschi. Toglierei il condizionale, la faremo. Penso che cerchi in qualche modo di preservare il presidente Grasso. Ma invece si è detto favorevole al cambiamento, ha detto che anche lui è un rottamatore. In realtà, con una parte di senatori eletti, avanza una proposta intermedia che rischia di fare ammuina, di far finta che cambi qualcosa per lasciare le cose come stanno. Grasso sembra invitarvi alla cautela. Sono solo 30 anni che se ne discute tra commissioni, bicamerali, seminari, convegni. Ora si passa all'azione. Così il ministro Boschi. Insomma, c'è da dire che bisogna capire come andrà avanti. Secondo il giornale, Grasso dichiara guerra a Renzi e la rivolta del Senato. C'è anche il ministro Alfano, ministro dell'Interno, che è intervistato da Repubblica, da Carmelo Lo Papa, dice: cambieremo il Senato, cambiamolo subito. L'approccio del presidente Grasso è conservatore, di difesa dell'esistente. Noi nel nuovo centrodestra stiamo dalla parte opposta, faremo al massimo dei ritocchi, ma vogliamo mettere il turbo alle riforme. Sulle riforme non possono esservi lentezze o ritardi, quindi questo anche Alfano. C'è chi invece, come Grillo, ha firmato contro quella che definisce la svolta autoritaria. Oggi il Fatto Quotidiano ne parla a pagina 3, la svolta autoritaria, l'appello che è stato firmato da Libertà e Giustizia, l'ex presidente della Corte Costituzionale Zagrebelsky e altri giuristi contro le riforme volute dal governo. E per la prima volta, fa notare il Fatto Quotidiano, Beppe Grillo appoggia un'iniziativa politica lanciata da altri, e quindi in questo caso, e come scrive Valeria Pacelli sul Fatto Quotidiano, Beppe Grillo appoggia l'appello di Libertà e Giustizia contro questa riforma del Senato. Va bene, ci sarebbe da parlare ora dei animali, di cani, gatti. Prima però Mauro Meazza. Questa non mi è venuta male, bisogna a proposito dire... di animali, buongiorno. No, a proposito di parlare, Mauro Meazza, sì. Buongiorno, tu hai un animale? Un po' sì, diciamo una tartaruga. Va bene, puoi rientrare nel nuovo corso berlusconiano, lascia perdere, anche la tartaruga è un animale. Ma perché cerca senatori, no? No, ma lascia perdere la svolta animalista di Berlusconi, ma insomma non sei informato, tu ti occupi solo di tasse, ma tra poco noi ne parleremo. Tu intanto dici un po' se la Tasi è peggio del Limu. Abbiamo il sospetto di sì, abbiamo il sospetto di sì, caro Alessandro, la Tasi sembra peggio del Limu per quello che si prospetta nei comuni che già hanno preso delle decisioni o che si stanno orientando in qualche modo. Cioè, che succede? Che probabilmente la Tasi verrà chiesta anche a chi non pagava l'Imu sulla prima casa, e per una platea che ne pagava magari molto poco si rischia di pagare di più. Questo è un po' il senso del lavoro. Poi tutti i particolari naturalmente sul Sole a pagina 3. E poi anche le comuni dove l'addizionale comunale pesa di più o di meno, l'IRPEF, parliamo di IRPEF, e lì c'è una classifica. Sai qual è il comune in Italia dove l'addizionale comunale è la più alta in assoluto? Ero distratto, ma prima credo che Valentina Melis ce l'abbia detto anche nel notiziario, ma ecco, dimmelo, ecco. In provincia di Bologna, da quelle parti. No, lasciamo la suspense, è tutto la pagina 2. Adesso ho capito la suspense. Non lo sai anche tu. Te lo sei dimenticato. Lo so, ma non lo voglio dire. Se l'hai dimenticato, voglio parlarne. Ti dico solo che è un comune che è famoso per il marmo, punto. Carrara, dopo questo indizio poi non so se facciamo partire le telefonate da casa, non so come si usa. Cos'è Carrara? Diccelo! Non è Carrara, ma insomma non insistere, che devo segnalarti delle altre cose. Botticino! Te l'ho suggerito, ma te l'eri dimenticato, questa è la verità. E tra i capoluoghi di provincia? Lasciamo stare, vabbè. Andiamo a vedere poi a pagina 2 del Sole 24 Ore. Voglio dire, per a proposito di Radio Fisco, verifiche sui bilanci, è la stagione dei bilanci, allora la checklist con le verifiche nella sezione norme e tributi del Sole 24 Ore, con i 10 punti da controllare, da tenere appunto, da tenere nel mirino per non sbagliare, sono verifiche appunto di ultimo, dell'ultimo momento. E poi è ripartito il campionato? Perché hai visto che è ripartito il campionato, ma non credo, non ancora. No, è ripartitissimo da due giornate dopo una lunga sospensione, insomma l'Inter non lo so. Non so se è ripartito o no, però ti voglio segnalare che sempre nelle pagine norme e tributi, come sai ci sono le pagine dedicate anche alla giurisprudenza e al merito, bene, ci occupiamo anche delle partite di calcetto, però anche qui, come sulle addizionali del VIRPEF, vorrei mantenere un po' di stretto riserbo. Certo, va bene. Vai a leggere e sai, così sai come si deve comportare l'animatore del villaggio turistico una partita ottimo, di calcetto. Ottimo, allora noi... E poi hai pazienza, perché sì? Ci vogliono più o meno 25 anni per smaltire l'arretrato della giustizia civile. Tu hai pazienza, sei un uomo sì, paziente. Sì, assolutamente, basta non fare cause. E quindi... Ecco, non fare però il conto in settimane, perché sennò la settimana decisiva per risolvere l'arretrato della giustizia civile la celebrano i nostri nipoti. Forse, sì, va bene. Allora, la svolta animalista con la tartaruga di Mauro Meazza, che vale un paio di voti di Berlusconi, ma prima Mauro c'è il traffico. Alessandro Milan, il ciupa ciupa dell'informazione. Vabbè, non commento questa. Allora, la svolta animalista di Silvio Berlusconi. Io ve l'avevo detto da mesi, ve l'avevo detto, guardate che è molto chiara la questione. Silvio Berlusconi ha capito che ci sono tantissimi italiani che sono proprietari di animali, hanno animali da compagnia in casa, anche Mauro Meazza ha la sua tartarughina, io il mio gatto, Peter Bescapè un cane, Miriam Lucchetti un cane, vedete, già sono già quattro persone che ognuno di noi ha un animale, e quindi potrebbero essere quattro voti, questo ha capito Silvio Berlusconi, e dunque si è lanciato, e tutti i giornali ora, vabbè, a partire da Dudù, dalla svolta di Dudù, ma attenzione perché i giornali ora concretizzano anche tutto questo, per esempio sul Corriere della Sera, per i sondaggisti il voto animalista può valere fino al 7%, il voto su cani e gatti divide i sondaggisti. Berlusconi ha buttato sul tappeto la sua nuova campagna elettorale. Ci sono 150.000 cani abbandonati, adottiamoli, sperando così di attirare il voto degli italiani animalisti. Sulla bontà di questa campagna, gli addetti ai lavori, i sondaggisti si dividono. C'è chi, come Nicola Piepoli, non ha dubbi e dice sarà un ottimo traino, è una gran bella trovata. Chi, come Roberto Weber di XE, decreta invece che questa campagna non porterà voti aggiuntivi a Forza Italia. C'è chi dice pochi, c'è chi arriva a quantificarli fino al 7%. Certo, rispunta sul giornale a pagina 5, probabilmente, anzi certamente non è un caso, un'intervista a quasi tutta pagina a Michela Vittoria Brambilla, ex ministro del turismo, da sempre in prima fila per cani e gatti, scrive il giornale, e dice: mi ha fatto immenso piacere, il presidente Berlusconi è animalista da sempre. Quando portai il Consiglio dei Ministri il tema dei diritti degli animali e dei loro proprietari, il mio alleato è sempre stato lui. Qualcuno dice però che Dudù detti la linea del partito, chiede Stefano Filippi. L'avrà detto qualcuno che non ha idea di cosa vuol dire tenere in casa un animale, l'affetto, le attenzioni, ma anche le difficoltà, le esigenze che tutto ciò comporta. Lo sa quante persone si privano di qualcosa per non far mancare il cibo alle proprie bestie? O quanto costano le visite e i farmaci veterinari? E lo sa bene lei, dice il giornale, che vive con 16 cani, 40 gatti, 3 cavalli, un mini pony, 2 asini, 2 daini, 7 capre, 3 galline e 250 piccioni. Così Michela Vittoria Brambilla. Mentre su Repubblica una pagina è dedicata proprio a questo tema con Filippo Ceccarelli, e Berlusconi porta gli animali in campagna elettorale. Certo che è sospetto, scrive Ceccarelli, questo improvviso amore di Berlusconi per Fido e Micio, per Giunta Trovatelli e la benedizione di Madre Teresa di Calcutta. Dinanzi alle meraviglie del creato, il cinismo è doppiamente riprovevole, ma per quel che può, per quel po' che si è studiato il personaggio, la sua vera e antica passione erano le piante, donde la splendida raccolta di cactus alla Certosa e anche l'orto degli arbusti officinali. Ma basta, da un anno solo animali, solo animali. E dire, scrive Repubblica, ulteriore conferma della scarsa sensibilità mostrata fino a poco fa per il regno animale, che non si hanno più notizie di un gatto di nome Miele, di cui si scrisse che giocava, suscitando viva allegria a corte, con un topolino meccanico ribattezzato Prodi. Era il pegno d'amore di un'attrice del primo ciclo di Intercettazioni nel 2006-2007. Vabbè, ma poi da Dudu c'è stata la svolta, e dunque la svolta animalista con gli animali e Silvio Berlusconi. Comunque, torniamo alle questioni politiche. Alle questioni politiche, il Messaggero racconta in prima pagina quello che è la questione degli 80 euro in busta paga, il taglia IRPEF. Ecco il decreto, scrive il Messaggero, arriva il decreto che consentirà il taglio dell'IRPEF. Palazzo Chigi e Tesoro sono al lavoro per concretizzare entro il 10 aprile il provvedimento che garantirà gli 80 euro in più in busta paga a maggio. Sono previsti tagli anche alla sanità per coprire 7 miliardi di euro necessari. Il conto alla rovescia è iniziato, intanto ormai pronto il giro di vite anche a Palazzo Chigi sugli alti dirigenti. A questo proposito scrive il Messaggero con Diodato Pirone a pagina 3 che il giro di vite è proprio per gli stipendi dei dirigenti di Palazzo Chigi. Si vuol far capire che si parte proprio da lì. Quali sono le linee sulle quali lavora il governo Renzi? Sono accorpamento di alcuni uffici con conseguenze sforbiciata tra i 23 capi dipartimento che guadagnano oltre 200.000 euro lordi ciascuno, eliminazione di alcune decine di consulenti sulla novantina elencati al 31 dicembre, e poi più in generale riduzione degli stipendi di tutti i dirigenti, poco meno di 300 tra prima e seconda fascia, attraverso la riformulazione di criteri per l'assegnazione dell'indennità di risultato, e ancora riavvio delle procedure destinate a riportare presso i ministeri di competenza alcuni uffici e di conseguenza alcune decine di addetti che negli anni scorsi sono stati dirottati verso Palazzo Chigi, dove guadagnavano di più. Queste le linee guida per risparmiare soldi a Palazzo Chigi, e si parte proprio da lì. Va bene, veniamo alle notizie di cronaca, le notizie di cronaca che mi hanno colpito. Beh, intanto su tutti i giornali trovate la notizia della morte di Gerardo D'Ambrosio, che è stato senatore del PD fino all'ultima legislatura, ma era soprattutto un uomo che viene identificato, un magistrato che ha identificato gran parte della sua carriera politica con il periodo del pool Mani Pulite. In realtà Gerardo D'Ambrosio è stato anche il PM di Piazza Fontana, è stato poi il capo del pool Mani Pulite, per l'appunto è scomparso ieri a 83 anni, indagò, come racconta Piero Colaprico su Repubblica, anche sulla P2, sul caso Calvi, anche se la politica è stata poi l'ultima fase della sua vita professionale ed è stata anche la fase che gli ha procurato più delusione. Ricordate un'intervista in cui disse: io dalla politica ho fatto anche 9 proposte di legge depositate, 9 disegni di legge, ma non si è discusso di niente. Insomma, ha dato un po' la sensazione di una politica che l'ha molto deluso nella fase finale della sua vita professionale. Trovate ovunque almeno una pagina su Ogni Quotidiano dedicata a Gerardo D'Ambrosio. Mi ha molto colpito invece, mi ha davvero impressionato quello che sia il Messaggero sia la Stampa raccontano di Luca Varani. Luca Varani è l'uomo che è stato condannato a 20 anni per essere stato il mandante di questo gesto davvero clamoroso, aver sfregiato con l'acido l'ex fidanzata Lucia Annibali. È stato condannato a 20 anni, ma cosa mi colpisce? Beh, è vero che il Messaggero scrive: purtroppo è un classico dell'Italia criminale. Ma la notizia che Luca Varani riceva da diverse ammiratrici lettere in carcere mi ha davvero sconvolto. Ti amo, non sei solo, sei molto bello, ti aspetto, racconta la stampa che una di queste ammiratrici si è anche presentata in tribunale. E allora eccolo qua il titolo: ha sfigurato la ex con l'acido, ora in cella riceve lettere d'amore. Grazia Longo sulla stampa, ma anche il messaggero ti amo, non sei solo, lettere shock a Varani in cella. Davvero, davvero impressionante. Va bene, prima di chiudere siamo al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali, siamo al momento della carta costa e c'è una pagina intera, io non ci volevo credere, ma che succede al giornale? Ma che succede al giornale? Sallusti! Massimiliano Parente dedica una pagina, pagina 20, ecco cosa non dire e fare al primo appuntamento. Vabbè, te, io e Peter, te non ce lo ricordiamo manco più, però insomma dai, una pagina su questo. Dai, fatemi andare al giornale radio per cortesia, senza aggiungere una parola, su. Mattino. Eccoci qua alle 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, tra poco parleremo anche di spese militari, ma prima la stretta attualità politica. Oggi Renzi presenta in Consiglio dei Ministri la riforma del Senato, in un'intervista al Corriere della Sera annuncia le novità saranno 4, il Senato non voterà più la fiducia, non voterà le leggi di bilancio, non sarà eletto e i rappresentanti del Senato non avranno indennità. Renzi risponde così al Corriere in un'intervista molto piccata, per la verità, alle due interviste concesse ieri da Pietro Grasso, presidente del Senato, prima a Repubblica, poi in TV. Pietro Grasso ha detto: attenzione, Matteo Renzi non ha i numeri, non si fa così una riforma, non si fa una riforma a colpi di maggioranza. E Renzi oggi dice: basta, è 30 anni che se ne parla, basta con il benaltrismo, basta con i rinvii, mi gioco tutto su questo. Io voglio salutare il senatore del PD Miguel Gotor, buongiorno e benvenuto senatore. Buongiorno. Eccoci. Allora, intanto chiariamo subito una cosa: lei per caso fa parte di questi 25 senatori che hanno già ricevuto, sono capitanati dal senatore Russo, credo, no? Che sarebbero contro questa riforma del Senato. Non ho firmato quel testo, quindi insomma non ne faccio formalmente parte. Che ne pensa di questa disfida verbale tra Grasso e Renzi? Ma che si tratta, appunto, è un'ottima definizione, una disfida e una sfida verbale. La riforma del Senato è una riforma costituzionale e le riforme costituzionali prevedono, secondo la Costituzione, una larghissima maggioranza, i due terzi del Parlamento. Aspettiamo con interesse questa proposta del governo, questo sì, contributo che il governo darà oggi per discuterne. Alfano appunto spiega. E la linea telefonica non ci assiste, abbiamo pescato naturalmente. C'è la linea telefonica che va e viene, è caduta, proviamo a richiamarlo. Il senatore Miguel Gotor è in treno, l'abbiamo pescato, ma insomma questa disfida verbale però è anche una sfida tra due esponenti dello stesso partito, di fatto, perché Pietro Grasso è stato eletto nelle liste del PD e ovviamente Matteo Renzi, e infatti Deborah Serracchiani ha fatto notare fa parte dello stesso partito che lo ha messo in lista. Certo, qualcuno la vede anche come una sfida tra il vecchio e il nuovo della politica, tra la voglia di rinnovare e la voglia di conservare. Ecco, abbiamo ripristinato la linea, senatore Gotor, mettiamola così: è una sfida però anche tra il vecchio e il nuovo della politica, tra chi vuole innovare, chi vuole... Credo che questa sia una semplificazione propagandistica, e per quanto riguarda il Partito Democratico siamo tutti d'accordo su due punti fondamentali, che sono peraltro i punti fondamentali che Renzi ha sottolineato nell'intervista che lei ha appena letto, e cioè il prossimo Senato non darà la fiducia sarà espressa soltanto dalla Camera dei Deputati, e in secondo luogo verrà meno la doppia lettura di ogni attività legislativa. Sì. Per quanto riguarda la elettività dei senatori, ci sono due idee in campo. C'è quella del Partito Democratico, che è stata votata dalla direzione e che prevede una elettività di secondo grado. Dire che i senatori saranno senza emulamento è una semplificazione, e lo stesso risultato si potrà o si potrebbe ottenere con una elezione diretta del senatore contestuale alle elezioni regionali. No, no, ma è chiaro che insomma queste sono le idee. L'idea è quella di una semplificazione normativa. Però questa voglio dire, non sfuggirà anche a lei che Pietro Grasso è stato eletto nelle file del Partito Democratico. Lo stesso Deborah Serracchiani ha ricordato esattamente questo. Oggi, guardi, Matteo Renzi in questa intervista al Corriere ha detto: se l'avesse detta una frase del genere Schifani, cioè eletto in centrodestra, ci sarebbero i girotondi della sinistra ora contro il Presidente del Senato. Questo non lo so, io dico solo che l'intervento della vice segretaria del Partito Democratico, della Serracchiani, tra l'altro il primo intervento, è stato improprio, è un errore, sarebbe più elegante ammetterlo e tirare avanti. Piero Grasso è la seconda carica dello Stato, non risponde al Partito Democratico, è un rappresentante tra i più alti delle istituzioni italiane, quindi rappresenta il Senato nel suo insieme. Guardi, ho l'impressione che questa mescolanza che si vuole cavalcare di antiparlamentarismo e di decisionismo non aiuterà il processo delle riforme istituzionali. Dal momento che io e tanti come me siamo convinti riformatori, sarebbe opportuno abbassare i toni, sottrarli dalla logica della propaganda, e dal momento che la Costituzione prevede quello che gli dicevo, cioè un serrato confronto parlamentare, avviare questo confronto parlamentare con un minimo di spirito e di volontà costituzionale. Certo, lei vede in Renzi troppo decisionismo? Ma non è questione che se si getta di continuo della benzina sul fuoco, questo non aiuta il processo riformatore, questo anzi è un modo implicito per probabilmente aumentare consenso, poi questo lo vedremo e si vedrà alle elezioni, però certo alle elezioni europee, però certo non aiuta a raggiungere l'obiettivo che è quello di semplificare il sistema, di ridurre i costi della politica e di riformare il sistema bicamerale. Ma le chiedo anche questo, senatore Gotor, a lei piace il Renzi che dice, anche oggi ribadisce al Corriere, o faccio questa riforma oppure mi gioco tutto e basta, non è che cade il governo, proprio mi gioco tutta la mia carriera politica qui. Io questo credo che rientri in una esasperazione dei toni, è veramente sbagliato collegare il proprio destino personale a una cosa molto più importante dei destini di qualunque persona, che riguarda la Costituzione, cioè la casa comune, cioè le regole che ci tengono insieme. Ma ripeto, nella sostanza, per quanto riguarda il PD, io non vedo problemi effettivi. Siamo tutti d'accordo sugli aspetti centrali di questa riforma, no alla fiducia, finiamola con il ping pong tra Camera e Senato per ogni attività legislativa, iniziamo a discutere nel merito. Sì. Qual è il merito? Quali sono le funzioni che saranno affidate al nuovo Senato? Certo. Allora, quello che prevede il governo, stando alla bozza che conosciamo, è limitato soltanto alle riforme costituzionali. E oggi poi lo vedremo con la riforma. Meglio, io credo che ci possano essere, e sarebbe un bene per la democrazia italiana e per il funzionamento dell'intero sistema, che ci siano anche altre funzioni affidate al Senato. Penso ad esempio al tema dei diritti, che non è saggio che sia affidato solo e soltanto a una Camera e deciso a maggioranza che cambia di 4 anni in 4 anni, e penso anche al tema, peraltro, in cui si accennava nella bozza del governo, dei trattati europei. Ma infatti questa è una gran discussione anche sui temi etici da affrontare al Senato. Ma è chiaro, però dice il PD è a favore, allora questi 25 senatori che hanno firmato, lei 25, come? Se lei legge, io il testo l'ho letto ieri, dicono esattamente quello che sto dicendo io in questo momento, cioè c'è consenso sui punti che le ho sottolineato, esprimono una solidarietà al Presidente Grasso, una solidarietà alla quale, come dire, mi unisco anch'io senza alcuna difficoltà, perché ciò che, ripeto, la reazione che il vice segretario del PD, la Serracchiani, ha dato ieri è una reazione che non è, diciamo, non è compatibile con un atteggiamento di rispetto istituzionale e democratico che serve. Ma è un infortunio, un errore, insomma, sono sicuro che la Serracchiani saprà recuperare. L'ultima domanda è questa: l'idea che i senatori non vogliano cancellare il Senato, che è un po' la questione del tacchino che non vuol festeggiare il Natale, lei come la vede? Sono 2 mesi che rispondo soltanto a questo. Posso dire che, come dire, è pieno di polli che pongono questo problema, che è quello dei tacchini. Usciamo fuori da queste dispute animalesche, zootecniche, non è questo il tema. C'è nel Senato attuale, per quanto riguarda il PD, una maggioranza riformatrice, e credo anche che ci sia un'occasione a livello di intero Senato, un'occasione molto importante da cogliere per appunto modificare, riformare questo bicameralismo perfetto. Sì. Se poi invece si vende o si vuole vendere una cosa che di fatto non avviene, non avverrà, e cioè l'abolizione del Senato, questa, come dire, non è colpa dei l'abolizione del Senato non ci sarà, ma secondo questa riforma una trasformazione del Senato. Io intanto la ringrazio, Miguel Gotor, senatore del Partito Democratico. Staremo a vedere, perché proprio oggi verrà presentata questa riforma costituzionale. Lo stesso Renzi dice: andrò io poi in conferenza stampa a fianco ai ministri, non per fare un altro show, ha detto, mettendo le mani avanti al Corriere della Sera in un'intervista, ma per stare a fianco ai ministri andrò io in sala stampa a illustrarla. Certo, i toni e la disfida verbale c'è, è evidente, tra il Presidente del Senato e lo stesso Renzi, che oggi risponde a Stretto Giro di Posta a dire avessero detto alcuni eletti nel centrodestra come Schifani o Pera queste dichiarazioni, ci sarebbero i girotondi della sinistra. Insomma, il clima è surriscaldato. Staremo a vedere. Intanto, dopo la pubblicità, parleremo di spese militari. Obama è arrivato qui, ha detto alcune cose: la libertà ha un prezzo, cari italiani, mentre il governo vuole tagliare 3 miliardi nei prossimi anni di spese militari. È un tema interessante, ce la faremo, tra poco ne parliamo con ospiti. 24 mattino. Allora, le 8:34 minuti, cari italiani, cari ascoltatori, io con la mia solita brutalità ho detto la scorsa settimana che Barack Obama è venuto qui in Italia, si è fatto anticipare da un'intervista del Corriere della Sera che era riassumibile così: bravi, dai, ce la farete, viva il Papa, viva l'Expo, viva l'Italia. poi ha detto wow che bello il Colosseo come un campo da baseball, anzi più grande. Il sottotesto però di tutto ciò era: mi raccomando cari italiani e cara Italia, non diminuite le spese militari, anche perché la libertà ha un prezzo, la libertà ha un prezzo. Nel mirino, chissà perché, nel mirino finiscono sempre gli F-35, come se fossero, diciamo, ormai vanno un po' a noia, sono diventati antipatici anche solo a nominarli alla gente, no? Come se l'F-35 fosse il problema di tutto. Immancabile, è arrivata ieri anche la domanda al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio da Fabio Fazio, sentiamo. Ce l'abbiamo? No, adesso lo recuperiamo. Eccolo qui, Fabio Fazio ha intervistato il sottosegretario Delrio, la domanda sulle spese militari. Noi abbiamo spiegato benissimo a Obama che abbiamo intenzione di ridurre le spese militari, quasi 3 miliardi in 3 anni. Quindi ridurrete anche l'acquisto di questi F-35? Io credo che una revisione del programma sarà necessaria. Lo dissi già quando ero ministro del governo Letta e mi provocò questo un incidente diplomatico. Se lei chiede, la mia opinione è questa: se il ministro della difesa poi troverà 3 miliardi in maniera differente... Insomma, la cifra è quello che conta, in realtà 3 miliardi, al di là degli F-35. Io voglio salutare Massimo Fini, scrittore editorialista del Fatto e del Gazzettino. Buongiorno Massimo, ben ritrovato. Saluto anche il generale Domenico Rossi, che è sottosegretario alla difesa. Buongiorno generale, benvenuto. Buongiorno a lei e anche agli ascoltatori. Allora, intanto 3 miliardi, mi sembra, la cosa più importante è la cifra, non focalizziamoci sugli F-35. Anche lei è d'accordo sul fatto che sono diventati antipatici solo a nominarli ormai la gente, talmente no, è perché è talmente di F-35 come se il problema fosse lì. Esatto, il problema è... però sono i 3 miliardi, si trovano e come questi 3 miliardi, lei è d'accordo a trovarli? Ma guardi, io credo che il Ministero della Difesa, così come tutti gli altri dicasteri, debba contribuire in maniera sicuramente fattiva alla riduzione della spesa pubblica, e in questo senso mi sembra che le dichiarazioni del ministro Pinotti dei giorni scorsi già indichino come da parte del ministro della difesa condurremo sicuramente una lotta, diciamo così, agli sprechi e anche alle ridondanze. Per quanto riguarda invece le riduzioni sostanziali che possono portare a dei risparmi, diciamo, consistenti, evidentemente questi non possono che uscire fuori da un'analisi a 360 gradi, che sia un'analisi compiuta e esaustiva. Ecco perché è stato indicato a più riprese che solo l'emanazione di un libro bianco che individui esattamente quelle che saranno le esigenze del paese, cioè gli obiettivi strategici, sì, del paese, e quindi le esigenze delle forze armate, può poi portare a dei processi di revisione e riorganizzazione che riguardino non solo l'F-35, no, ma è chiaro, come diceva lei, ma evidentemente la struttura in senso generale, ovvero di qualsiasi sistema d'arma che oggi sia stato programmato. Però visto che gli F-35 la dobbiamo compiere. No, ma è chiaro, sono diventati un simbolo. Ci dica effettivamente se tecnicamente, visto che vengono acquistati anno per anno, confermati, cioè tecnicamente è possibile tutto, anche bloccare tutto, oppure tecnicamente ci sono degli impegni? Ci faccia capire, poi la scelta politica è un'altra questione. Guardi, come lei sa, il programma degli F-35 tecnicamente era partito da un'esigenza di 130 aerei, e poi è stato ridotto a 90, dalla difesa a 90 velivoli, e questi 90 velivoli erano quelli che tecnicamente erano stati ritenuti necessari per la sostituzione di circa 235 esemplari tra Tornado e AMX, sì, che ormai hanno quasi più di 40 anni e che quindi non sono operativi. Basta pensare che di questi 235 ormai ne sono in linea unicamente 110, perché man mano che, diciamo, hanno delle avarie o delle inefficienze non possono essere più riparati per evidenti convenienze in relazione al costo efficacia, diciamo così. Certo. Questi aerei, che fanno parte ovviamente, come sappiamo tutti quanti, di un programma internazionale che in Europa non vede solo noi, ma ad esempio vede anche Regno Unito, Olanda, Norvegia e altri paesi anche come in via, diciamo, di che potrebbero decidere di acquisirlo, quale Belgio, Spagna, Grecia, Finlandia, Polonia, e ci sono anche altri ulteriori partner di questo programma come la Turchia e Israele. diciamo, rispetto ai 90 velivoli, ai velivoli si procede per lotti di acquisizione. Sì. Non c'è un contratto in questo momento che impegna l'Italia ad acquistare 90 velivoli. Quindi lotto per lotto bisogna giudicare. Alcuni lotti sono già stati, diciamo, possiamo prendere, diciamo che per alcuni lotti è già stato fatto mutuo e rogito, diciamo così. Ecco. Per altri lotti sono in via di acquisizione. Ovviamente la difesa rispetta la mozione che è stata approvata a suo tempo del Parlamento e quindi non si è più mossa oltre quanto già a suo tempo. Allora, ma è chiaro, e poi si discute lotto per lotto. Poi allora, si discuterà lotto per lotto io... in funzione ai risultati. Ora mi scusi se faccio una precisazione perché me l'hanno chiesto anche in un'altra trasmissione, e quando parliamo di libro bianco evidentemente non parliamo di rimandare alle calende greche queste decisioni, sì. Poi ovviamente del 2014. No, anche perché effettivamente 3 miliardi del Rio ha detto vanno recuperati in 3 anni e quindi siamo a stretto giro di posta. Allora, uno dei più feroci critici dal punto di vista giornalistico degli interventi militari recenti occidentali è certamente Massimo Fini, no? Posso dire così in maniera molto chiara, a cominciare da quelli in Afghanistan, ma poi anche quelli in Iraq, in Libia, eccetera. Però Fini, voglio chiedere una cosa: è d'accordo quando Obama dice che la libertà ha un prezzo, il che vuol dire anche e questo intanto letto in controluce vuol dire che noi finora non siamo mai stati liberi, evidentemente, perché con la protezione dell'ombrello americano in realtà noi siamo stati sudditi degli Stati Uniti d'America in senso militare, politico, economico e alla fine anche culturale, di uno che poi viene qui e crede che il Colosseo sia uno stadio da baseball. Quindi la libertà ha un prezzo, certo noi dovremmo, secondo me, a lunga scadenza uscire da questa alleanza totalmente sprecata che è la NATO e casomai spendere i nostri soldi in armamenti in Europa e integrati nell'Europa. Comunque una delle cose che a mio avviso va fatta, c'è una sola missione internazionale veramente tale di peacekeeping, quella in Libano, in tutte le altre venire via in una siamo veramente in una situazione infame che è quella dell'Afghanistan, insomma. Ma uscire dalla NATO, lei dice addirittura? Uscire dalla NATO? Assolutamente, perché la NATO è stata oggettivamente lo strumento con cui gli Stati Uniti hanno, diciamo, messo in stato di minorità non solo noi, l'Europa intera. Ma non è stato anche un modo per difenderci, per esempio? Certo, ma fino a quando è esistita l'Unione Sovietica, cioè fino a quando la NATO era il deterrente necessario, la NATO, insomma, gli Stati Uniti, perché poi sono gli Stati Uniti la NATO, non è inutile cos'altro, anche se poi ci mettono un norvegese a capo, per dissuadere l'orso russo a fare avventure militari in Europa ovest. Ora questa situazione è totalmente cambiata. Addirittura uscire dalla NATO, anche se voglio dire non è un ombrello di protezione europea, dice investire nell'Europa, ma in fondo quello è il trattato nord-atlantico, riguarda anche l'Europa, o no? No, l'Europa, ma l'Europa potrebbe fare da sé senza avere questo alleato molto scomodo che sono gli Stati Uniti. Cioè non ha più senso nel momento in cui è caduta la cortina di ferro, esatto. non c'è più l'interesse di stare con gli Stati Uniti, ma stare da soli. L'Europa. Da soli, ma addirittura noi abbiamo più interesse a allearci in modo un po' diverso con la Russia, a cui siamo molto più vicini fisicamente, territorialmente e anche culturalmente. Addirittura. Questo non è un'idea stravagante, non è solo mia, insomma. Però è un'idea abbastanza so, generale Rossi, insomma, è cambiato il mondo, siamo più vicini alla Russia adesso, che fino a pochi anni fa era il nemico assoluto per cui è nata la NATO, adesso dice Fini bisogna sovvertire un po' tutto, siamo succubi dell'America, generale. Ma guardi, allora, intanto un aneddoto. Effettivamente il mondo è cambiato, perché io nel 1973 ho preso servizio in un reparto militare vicino al confine con l'allora Jugoslavia e avevo ben chiaro che c'era un nemico che avrebbe attaccato da est e come tale dovevo difendermi e dovevo individuare determinate situazioni operative, diciamo, da controbattere. Oggi evidentemente le minacce sono cambiate, la minaccia non è più simmetrica, ma come tecnicamente, come si suol dire, è asimmetrica, e la minaccia che è asimmetrica ed è globale evidentemente coinvolge ancora di più tutti gli attori internazionali che sono effettivamente o vogliono essere attori della sicurezza. In questo senso evidentemente la NATO ha ancora un ruolo e una funzione, non ci sentiamo assolutamente sudditi, tutte le nostre missioni sono missioni evidentemente che sono state approvate dal Parlamento e come tali pertanto sono espressioni di una volontà e non evidentemente di una sudditanza. Condivido invece un punto che per quello che mi è sembrato di capire del giornalista, del dottor Fini, a cui rivolgo ovviamente un saluto, ed è quello della necessità di una Europa comune più forte. Sì. Di quella che è, ovvero di uno sviluppo reale della difesa europea comune. Io sono stato qualche giorno fa spiegato dal ministro Pinotti a una assemblea dell'EDA a Bruxelles, e sì, proprio in quell'occasione ho detto che tendenzialmente ogni paese, per andare veramente a una difesa comune, dovrebbe forse anche rinunciare a un poco di sovranità nazionale. Insomma, più Europa, anche questo, il cosiddetto esercito europeo. Ma dopo il traffico, voglio capire da Massimo Fini se le questioni di almeno 3 miliardi di spesa del governo Renzi è un qualcosa che piace oppure no, e se questi F-35 è un programma dal quale ritirarsi in toto oppure no. Allora, caro Massimo Fini, elenco di messaggi per lei. Ricordi, Fini, che abbiamo perso la guerra, ci scrive Fabrizio da Varese. Oppure, giusto uscire dalla NATO e sperare di essere invasi da qualcuno. E allora, e ancora, ma insomma, Fini dimentica che l'America ci ha salvato, no? Ancora con questi discorsi, ci ha salvato 70 anni fa. Voglio dire, il tempo cambia, le cose cambiano, i rapporti cambiano, l'America ci ha salvato, ci ha anche sconfitto, ci ha anche bombardato, voglio dire, io quando piccolissimo sono arrivato a Milano era una città totalmente sventrata, siccome gli americani no, bombardano a dove coio, vicino a me c'era la stazione centrale intatta e tutte le case erano distrutte. Comunque ci hanno salvato, d'accordo, ma ci hanno salvato 70 anni fa. Adesso la cosa è diversa. Voglio dire, questa alleanza con gli Stati Uniti, ripeto, finché c'era l'Unione Sovietica, nelle forme dell'Unione Sovietica, era necessaria, anche se devo dire proprio in quel periodo Andreotti, ministro degli esteri, riuscì a fare una politica estera nostra autonoma nei confronti dei paesi arabo-musulmani, che non è certo quella degli Stati Uniti d'America. Infatti fu accusato di essere fino arabo. Per una volta c'era un ministro che in situazioni estremamente difficili faceva anche una politica che faceva gli interessi italiani, perché noi questi li abbiamo sull'uscio di casa, gli americani c'erano a 10.000 km di distanza. Questo certo, però voglio dire, gli F-35 che dovrebbe fare? O i 3 miliardi che vengono tagliati non sono cose che la soddisfano? Ma no, gli F-35, come l'ha detto lei, sono un... cioè bisogna vedere che linea politica si adotta, insomma. Voglio dire, la mia formula è da sempre, da molti anni, un'Europa unita, neutrale, armata, nucleare e autarchica. Ecco, noi dovremmo rafforzare un'Europa di questo genere, il che significa anche che la Germania, 70 anni della guerra, possa riarmarsi nuclearmente. Ecco, allora forse potremmo difenderci da soli. E anche la... Ma se non c'è l'Europa unita, non si dice neanche l'Europa unita politicamente, se la vede l'Europa, questo... l'Europa unita militarmente. Va bene, questo è naturalmente un programma in prospettiva. Purtroppo l'Europa è nata male, perché è nata prima economica che politica. Non è che Adenauer De Gasperi, Spac fossero dei cretini e non capissero che l'unione politica era più importante di quella economica e che gli americani c'erano più idee di fare. Insomma, mi sembra di capire che per Massimo Fini, se anche tagliamo 3 miliardi, sì, sono risparmi importanti, ma è quel il sottotesto che interessa. Cioè, che politica facciamo? Se si tagliano 3 miliardi va bene, risparmiamo, ma se non cambia sostanzialmente la questione, non. No. Infatti, la cosa che potremmo fare, credo immediatamente, è ritirare alcune missioni. Ripeto, alcune sono totalmente inutili, altre sono infami. A me non piace essere un paese coloniale che occupa da 12 anni un altro paese e ha fatto circa 200.000 morti. Si riferisce all'Afghanistan. Vabbè, il generale Rossi, al di là dei tagli alla difesa, visto che lei è un generale, devo chiedere un parere allora su questo. Però ha sentito, oltre alle missioni, Massimo Fini, forse lo legge anche lei sul Fatto Quotidiano, sul Gazzettino, è molto, molto duro sulla linea. Dice: siamo complici di un'aggressione assolutamente sbagliata, per esempio, in Afghanistan. Sulla questione delle missioni, dice Fini, solo in Libano ha un vero ruolo di peacekeeping, per il resto facciamo guerre, questa è la verità. Ma guardi, credo che non sia il caso di entrare in una polemica che a mio avviso non ha ragione di essere. Le nostre missioni sono sempre partite con un unico scopo, che era quello o di ripristinare la democrazia, o di mantenere situazioni di pace, di libertà e di tutela delle popolazioni. Io, prima di dare un giudizio negativo sull'Afghanistan, andrei ad esempio a esaminare come è evoluta la popolazione scolare, in ambito scolare, cioè abbiamo avuto un incremento del personale femminile che finalmente ha potuto andare a scuola, che sarebbe stata assolutamente impensabile sotto un regime talebano, per non andare poi a pensare allo sviluppo della sanità, delle strade, eccetera. Quindi onestamente, prima di dare un giudizio totalmente negativo, come quello che peraltro rispetto, perché tutti le espressioni sono ovviamente lecite del dottor Fini, ci andrei cauto. Per quanto riguarda la missione in Libano, mi sembra che lo stesso dottor Fini ne riconosca l'utilità, così che le missioni sono l'espressione del fatto che l'Italia come paese non può tirarsi fuori da certe situazioni in cui evidentemente ha delle responsabilità di sicurezza a carattere internazionale. Quel quei discorsi sono stati fatti nei giorni scorsi in cui qualcuno ci ha accreditato come sudditi del presidente Obama, non volevano altro invece che ribadire proprio questo, che l'Italia continua ad essere garante di principi di libertà e di democrazia ove serva, assumendo quel ruolo che di fatto gli ha dato anche una certa importanza e rilevanza di carattere internazionale attraverso le missioni militari. Per concludere, Fini, ma che si aspettava che Renzi dovesse dire, per esempio, a Obama? Nulla, questi incontri sono incontri di pura parata. Devo dire che i due messi a fianco davano proprio l'impressione di due mediocrità. È questo il prezzo che la democrazia paga a se stessa, perché la democrazia, proprio secondo i padri fondatori, non deve esprimere dei grandissimi personaggi, perché sennò si arriva alla dittatura. Ma certo, facevano proprio messi uno accanto all'altro, si vedeva che erano due personaggetti. Io credo di conoscere almeno un centinaio di amici che sono molto più svelti, abili, intelligenti. Fini, voleva un amico suo presidente degli Stati Uniti. Penso per esempio. È ovviamente un giudizio. Sì, il generale dica. Voglio dire, è ovviamente un giudizio che, come quello di prima, rispetto, però ovviamente non. No, ma è chiaro, su questo non concordo assolutamente. Su questo sì, dice Massimo Fini, c'era almeno un centinaio di amici miei che sono più svelti rispetto a Renzi e Obama. Va bene, ci dobbiamo fermare qui purtroppo, ma riprenderemo il discorso e vi ringrazio il generale e sottosegretario alla difesa Domenico Rossi e Massimo Fini per essere stati con noi. L'appuntamento è rinnovato a domattina 6:30. Stasera, se volete, in TV 7 Gold alle 21:10. Io ci sono.